immagini che lasciano il segno e resteranno dentro i miei occhi nel tempo. Se ti guardo, io rivedo me stesso. Ti addormento e nel silenzio del tuo cuore sento il battito. Ora che sei diventata la ragione che mi muove, tu inventi il tuo cielo tra linee di colore. Tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome. Tu hai trasformato tutto il resto in uno sfondo. Tu della mia esistenza sei l'essenza. A cambiarmi, ritrovandomi forse un uomo migliore. Ti proteggerò dal vento, poi ti guarderò sbocciare. Sei la mia motivazione, la passione che mi muove. Tu inventi il tuo cielo tra linee di colore. Tu che hai dato alla mia vita il suono del